settimana, e Luka Brugic è prima del girone, è già passata automaticamente agli ottavi di finale, mentre l'Atalanta, il Milan e tutte le altre devono ancora soffrire parecchio, quindi già gli ottavi. Mentre il campionato... Comunque, io penso su Fiorentina 0-0, dai, allora prendere questo mouse, impiantare il segno e poi ci sentiamo tra poco, dai, ci sentiamo dopo, buon proseguo, dai. Prenditelo col filo, se no con la radio con Benicasotti. Certo, col filo. USB. E io. Il cavetto USB, no, Bugliar Spinotto è quello dell'USB. Ha vinto Fiorentina, interessante. Non ha già tentato, beh, dai, da blu più. E allora che si dice, Gianfra? È tutto un casino. Sì, c'è questo, è tutto un casino. Ok, io rimango in ascolto perché sto tanto baciambaca risolvendo problemi. Ehi, fai, io sono qua, non faccio niente di particolare. Oh, yaga. Oggi ho bevuto un po' di birra a pranzo, ma ho fatto la valigia, ho avuto una settimana senza toccare niente. Io tanto dalla prossima settimana... antibiotico, così, adesso devo usare qualche birretta, niente di speciale, ovviamente prima ho mangiato una bella mezza spianata con prosciutto e gorgonzola a pranzo, perché volevo perdere un po' qualche chiletto, però sono recuperato, mi viene anche la fonda a lasciarmi le scarpe, e se lo recupero con la birra il chiletto. Oh Luca, ciao il mouse, però senza fili qua di mia figlia nuovo, di un comportatilino. Attaccagli le cose USB. E metto proprio corto il cavo, c'ha un cavettino, c'ha un ingresso, un micro USB e poi USB, e attaccare un portatilino, è cortissimo il cavo, adesso non so se ne ho di cavetti da micro USB a USB, devo guardare. Se non te lo prendi senza fili, la batteria non è che te le consuma, io uso le batterie dura, cioè, no, non tu usi queste batterie, c'è una di, io quello lo uso perché mi è utile, però nel portatile uso il touchpad, non ne uso mouse. Roberto, prendilo col filo, senza batterie, il mouse, perché se lo devi usare con la radio ti causa problemi. Ho capito, però adesso io non ho acceso il mouse, come faccio a configurarlo col computer? Non c'è la pennina che ti ho fatto io davanti, non l'ho lasciata Luca. Ma non va bene per tutti i mouse quella lì, ci vuole la sua. Non è che devo abilitare il coso senza fili dalla tastiera, chi mi può dare risposta? No, ognuno c'ha la sua, è quattro, sono codificati. Quindi ci vuole per forza il cavo USB? Beh sì, se non c'hai il coso lì, il ricetrasmettitore di quel mouse, è chiaro che non funziona, ma... quindi mettici un filo che fai prima. Già c'ho il filo, ma è lungo 10 cm, aspetta, volevo vedere se funziona, lo attacco così per vedere. Dai, tanto il mouse occorre a me. Se passi su un altro canale ti dico i parametri e scarichi una cosa. C'è il parigua, c'è andato da Eugenio. Vabbè. Aspetta che forse c'è un cavetto più lungo, se va bene. Senti cosa ti ha detto Gianfranco, che ti ascolta. Ehi, a me l'ho spostato nell'altra stanza, cosa ha detto Gianfranco? Cazzo, già fai proprio in fretta, cosa sei? Una lucertola. Allora ti ho detto che se ci spostiamo di un canale ti dico come scaricare un programma, scaricato quello, boh, finita, ci penso io a farti da mouse. Ma prima non volevo attaccare il coso, il Gianfra, non mi devo attaccare. Ah, Gianni, vuoi sapere poco di cosa? Allora, vabbè, andiamo sul 12, dai, e poi mi dici tu cosa devo fare. C'è lui il computer con quel programma, non hai capito nulla, da remoto. Ho capito, però devo attivare il programma, se non aggiungo mouse come faccio? Con la fantasia. Allora vai sul 12 Gianfra, dai, vediamo un po' cosa succede. Vai. Gappa gappa, c'ho questo cavolo di rumore, mamma mia. Sono di nuovo qua. Allora aspetta che prendo il cavetto, lo prendo un attimo. Ma Mario, che fine ha fatto? Mario, modula. Si è allontanato. Ci vuole ancora visibile. Luca, chi c'è rimasto? Aspetta un attimo, arrivo subito. Calmo. Il cavo l'ho trovato già colletto. Ai, ci vuole. Vedi prendimi la caccia del Kingwood. Allora, faccio un pezzo solo, me ne manca a me, non riesco a trovarlo. Mi faccio la linea del 140, io ho il 140, l'alimentatore, la colonnina, mi manca la T250 e l'accordatore automatico di linea. Ne avevo trovato uno che voleva 250 euro, gli dite vai, ma niente, vai. Sì, ma SB430 si chiama, che è quella del 430, del 140 e del 680. SP430. Eia, SP430. Quanto, eh? È proprio il mio G. Guarda, ce ne sono di quelle lì. Una cinquantina di euro costa. A me non te la fanno, non te la vanno. Ma 50 euro si possono anche spendere. È ovvero. La... quando è uscita nuova costava 120-150 euro. Ma quelle non sono toccate, no? Io non penso che non tocchi la cassa. Già tocchi, è chiusa, non ho toccato, non so dentro, da, non so se da 4 o da 8, boh. Da 4 ohm o da 8 ohm, se mi ricordo. Però fa linea, è bella perché fa linea, capito? Lo so, è bella, la voglio prendere per quello, perché fa linea. Ma si può ti procurare l'alimentatore su, il PS50. Col PS430 sempre, sono tutti e due, col PS430 o PS50, c'è il PS50. E fai, ti fai tutta la linea, capito? E vabbè, vabbè. Sì, è andato il tuo. Non li trovo molto facilmente, però qualcuno ogni tanto già si trova in circolazione. Anche quello, 80, 90 euro, 100 euro. Ma almeno c'è un alimentatore come il controcazzi. Io ce l'ho, ve la valaccio 20 anni. 20 anni ve la valaccio, uno. Però funziona bene. L'avevo pagato anche un po' di soldi. Funziona bene, il tuo illuminato. E poi non ha i fili davanti, ce li ha dietro, l'aggancio dei fili. Capito? Va benissimo. No, la cassa mi interessava. Sì, vanitoso, bello, grosso. Come boh? Bello, grosso, tre fili. Vabbè, ciao Claudio, ciao Eugenia. Poi buonasera. Sì, Altino, buonasera. Infatti, vabbè, ma quello, cazzo, Eugenio, è un alimentatore di sacco come il mio, io c'ho un proc, se la 50 per, ma sono alimentatore di sacco barato, cioè, sono switching, io sto con un alimentatore serio, la chiamo da trasformatore, ti ho detto, ce l'ho 20 anni io, non so manco mai ter fatto vento, c'è la ventola, si accende automaticamente quando l'alimentatore raggiunge la temperatura, c'è l'attacco diretto, non ha connettore, lì che va un gavo grosso, che esce da e va direttamente alla radio col connettore già attestato, è una cosa più professionale, no? Sicuramente, magari sacco barato, questo non è switching, questo c'ha il trasformatore dentro, visto cosa pesa, 13 kg pesa. Dietro è un sacco Pino. Sarà come quello che avevo io con l'alfa elettronica, non so se ti ricordi, con gli strumenti, pesava 25-30 kg. Allora, adesso non ci sono ricordo, perché non mi serve. No, io ho quello della Proxel da 60 e poi c'ho quello della Diamond che è un buonissimo alimentatore da 45 ampere e poi c'ho quello di linea che è quello che alimenta il 430, questo 140 è alimentato dal Proxel, capito genio? Guarda, trovatela la colonnina, trovatela la colonnina, SP430, quella lì. Così te l'attacchi alla, la metti vicino al 140 e fa linea, capito? Ma una cosa attiva volevo dire, sì, mi sono comprato questo frigo per il camper, non ce n'è, cosa redda è, olio a compressore a 12, fa da, arriva da 10 gradi, scende fino a meno 20. Sì, lo stavo cercando, mandami il link, una fotografia così lo vedo, perché avevo intenzione di parte dell'armadio, perché praticamente è a metà, quindi avrei messo il frigo dentro, aumentandolo a 12 o a 2,20, e poi fargli una mensola e usare l'altra parte dell'armadio, capito? Non mi basta quello piccolino. No, perché tu hai il frigo piccolo, io ho quello grande del camper che ci sta una marea di roba, e più ho comprato quello 55 litri, ma lo sai, ci stanno 68 lattine di mezza, già quello lattone, 68. Lo metto in galvone, va a 12 e ha il compressore, ma guarda, te la ghiaccia in una maniera bellissima, croccantissima, cosa lì qua. Aspetta che ti dico la marca. Mandalo sul Messenger, che così me lo guardo sul computer, vedo un po' se in base alle mie esigenze, soprattutto a quanto costa. Cerca Vevor, frigo Vevor. Roberto, benvenuto. Aspetta che sono in una sopra pagina. E vai alla grande, vai a occhi chiusi, perché è troppo forte, è troppo bello. 318 euro. Lui è un cazzo, ma è sceso. Vevor, come ci scrive? Vevor, normale. Scusa, è soltanto per fare queste operazioni con Gianfranco, per non è necessario di niente. Quando... Sì, mi hanno detto Matteo che c'erano questi... Vediamo un attimo, io cerco la macchina, da 2,85, quello che dice, l'ho già visto, un ragazzo a Rosì. Gli ho fatto vedere io a Matteo, non lo conoscevo. No, è un ragazzo che era vicino a me. Sinceramente a me va benissimo, però ero un po' scettico. No, vai a occhi chiusi, guarda, vai a occhi chiusi, te lo garantisco io, guarda, eccezionale. L'estate a 40 gradi, sai che il frigo del camper non ce la fa, questi trivalenti sono una mezza fregatura, mi sa tanto, questo è della Domenico, cosa sono. Ho piazzato quello a 40 gradi al sole, lo regolavo a 0 gradi, mamma mia, come faceva le bibite, cosa ridda era. Sì, bello. È bello, però io ho sinceramente una cosa più normalina, diciamo, tra virgolette, perché tanto rimane chiuso nel... anche un frigo, un cubo, mi c'è presente, un frigo a cubo. Lì nella qua, questo è bello, sì, ma è da mettere in galvone. Non è detto, posso mettere, fai l'allaccio a 12, vabbè, l'allaccio a 12 e l'allaccio a 2,20, è uguale, te lo hanno coperto di tutto. Non è detto, te lo metti sotto la dinette. Il pannellino davanti, dove ti dice la temperatura, quello lì è. Come? Il tuo al pannello dove ti dice la temperatura, i gradi, quella roba lì. Sì. Quello lì, è grigio volta a nero. Scusa Clare, un attimo. Sì, questa è anche la striscia a metà nera. Già è quello, 300 euro costa, 310 euro. Andabex, l'avevo già visto, era un po' scettico però, solo che per il prezzo che deve per forza andare. Però sinceramente adesso non lo fa, ma credo che il prossimo anno qualcosa del genere oppure un simile lo prendo. Ma guarda, garantito al limone che è perfetto, funziona in una maniera allucinante. Anch'io ero scettico, poi ho detto ce le butto al limite, sempre un frigo e invece guarda, soddisfattissimo. Se vuoi ti ghiaccia la roba, assurdo, veramente. Io ce l'ho sempre a 0 gradi e fa la cosa croccantissima. La birra in bottiglia, con la lacrima, poi cosa ridda. Claudio, hai capito, non vuole piangere, non vuole vedere piangere le birre. Quando la partita. Vabbè. accorgerete, no, la birra c'è, non è fresca, io non è bevo, mi piace fresca a me, cappa. Vabbè, no, non so, stavo pensando di mettere oggi un freezer anziché un frigo, perché, ma un freezer piccolo però, di quelli sempre a cubo, che ne so, magari 50x50, 60x50, non lo so, perché con l'intenzione di portare anche, di mettere la carne, quella roba lì, capito? Quindi il frigo che ho io ha un freezer che ci stanno circa 16 lattine, quindi 16-20, non mi ricordo, quindi è abbastanza ampio quello del camper, però per aiutarlo volevo prendere un freezer in maniera tale che ci mettevo la carne, ci mettevo, che ne so, le lasagne, quello che, insomma, che si decide. Nel frigo piccolo del camper ci stanno massimo due lattine. No, stai sbagliando, in quello che ho io no. Allora, in quello che ho io, se non mi sbaglio, guarda, ti faccio un conto approssimativo, credo che ci siano circa dalle, io credo, intorno alle 16 lattine, ma di quello che ho detto io però sto parlando. Ok. Ah, ho capito, allora non è proprio quello piccolo. Aspetta un attimino che mia moglie ha detto che sente, no, non è quello, che sento una riga, aspetta, vado a verificare. Ti ha io comprato il camper, allora mi metto il Galaxy nel camper. No, quello che io è, il frigo è piccolo, cioè il freezer ci stanno 16 lattine, credo, adesso non ricordo, 16 o 14, comunque è un numero doppio perché ci stanno una fila sotto e una fila sopra, quindi su quello non ho dubbi, però non posso mettere l'altro, capito? Quindi se metti la birra, il freezer è occupato già da quella cosa, se la toglie proprio ghiacciata, cioè se non stai attento devi reintegrare, devi togliere e mettere, perché sennò te le ghiaccia. No, con mia moglie abbiamo fatto un accordo, il frigo grande del camper è il suo, ci mette la roba a mangiare, c'è tutte le cose, quello che ho comprato io è per me, ci mette tutta la roba a bere lì, cose, mamma mia, cosa lì dai, ui. Sì, l'ho visto. E allora al campeggio con quello c'era un ragazzo, c'è anche a me, ti posso chiedere un'informazione, così l'ho chiesto, ma per me va benissimo. Questo era una tenda addirittura, quindi è diventata da due finti, perché c'è la colonnina, però la roba fresca ce l'aveva. Sì, perché poi ce lo puoi attaccare a 220, intanto c'è il suo trasformatore, no? Cioè ti ripeto, hai il compressore a 12. Ma la freddo una maniera di sto prendendo adesso, perché l'hanno visto a me e alcuni mettono la roba da me in fresco, le bibite. Guarda, su quello non mi dispiace, cioè non ho problemi su quello. Il problema è che se parti per dire per un po' di tempo devi metterti la carne, questa roba qua, ho preso un frigo di quelli da barca, diciamo, quelli grandi, costa 90 euro, ma ti dura 3 giorni la roba ghiacciata e basta, poi ghiacciata fresca, se la metti ghiacciata la roba ghiacciata, ma dopodiché va andando a decadere la cosa. Ho capito, ma adesso ci devi mettere il coso, come si chiama, il ghiaccio. Esatto, a me però mi interessa metterlo al camper e mettere già la roba congelata e toglierla al momento che mi serve, cioè però deve rimanere sempre congelata, quindi volevo mettere questa sorta di cubo, però freezer, non frigo, freezer, tutto freezer, capito? Quindi quanto è grande, quanto è? 60 di altezza e 50 di larghezza, tutto quanto freezer. Ho capito. Vabbè, comunque, se cambi idea non sbagli, assolutamente no, non sbagli. Con quel frigo lì vai alla grande. No, non fa nulla. Sì, sì, ma è, quello va bene per la roba, va bene, capito? Io ti ripeto, lo voglio per poterci mettere la roba da mangiare dentro, non per... va bene, già non rimango accaldato. Ma dentro c'è anche il boxerino, c'è il boxer dentro per mettere la roba a mangiare. No, sì, l'ho visto, lo provo da adesso. Quello non ghiaccia, si tiene la roba bella fresca e non ghiaccia. L'altro è micidiale, tutto il resto è... infatti io lo leggo, faccio tutto roba da bere. Fai così, mi va a piacciono. Ebbè, se quello è il tuo. Il tuo, il capo ce l'ha il gavone, sì? Sì, però non è molto alto, e quello mi dispiace, perché praticamente il letto a castello dietro, no? Avrà di gavone, quanto sarà l'altezza? 45-50 centimetri, non di più. Ah, ok, vabbè, quello lo puoi rimediare sollevando il letto a castello. Esatto, e poi se sollevo il letto a castello è alto, caspita, sino al secondo letto è alto, però quando si esce quel letto si occupa. Ah, ho capito come ce l'hai. Eccolo qua, lui è entrato sotto, vai. Vai fuori, guardalo fuori. È entrato il cane a salutarle. L'hai visto il cucciolo che ho? L'ho visto su Facebook, mi sa tanto, cos'era? Un Rottweiler, un cucciolo Rottweiler, no, mi sto sbagliando. No, già è lui. Sei mesi adesso, ma è mezzo vitello, quelli crescono, ma tu hai il giardino, sì? Sì, è venuto con me in camper anche. L'allarme avevo, No, io come allarme in camper ho chihuahua. Questo si colica all'entrata. All'entrata non si muove per niente, non disturba, ma se sente rumore. Quindi hai anche i sedili davanti fissi, non girano? No, quelli non girano. Anzi, volevo mettere un terzo sedile perché il piccolo mio figlio vuole sempre stare vicino, non so se si può passare, però, perché io ho il passaggio tra la cabina e il carro, diciamo. Non so come fate e basta tre persone, con le nascoste. Volevo mettere un terzo sedile piccolo, non so se si poteva fare, mi occupa il passaggio, però. Il passaggio è importante, no, non riesce a camminare all'interno del campo. E vabbè, la cabina alla cellula, insomma, è importante sì, solo che non lo faccio fisso, adesso vediamo, ma non so neanche se lo faccio, è un'idea. Ascolta, ti volevo dire una cosa, ho un amico che mi sta proponendo delle batterie a gel, usate un anno, tu sai benissimo che quelle gel durano dalle 10 ai 15 anni, se ti possono interessare, io ne ho preso 4. Sì, a me no, il mio ha tutto un altro sistema, cioè sì, ha sempre le batterie, però no. Ah, ho capito, no, ma io le ho prese, io non è che ne ho tante di, ne ho una di servizio e basta, ma basta avanza, quelle le ho prese per poter fare una cosa, diciamo, mia. Poi le migliori sono quelle AGM, non al gel. Sono della fiamma questi qua, No, le migliori sono della Green Power, che fanno solo batterie AGM, fanno solo batterie per servizio. Le migliori infatti costano più di tutte, ma a comprarne una costa 250 euro. Break! Sì, registrato, ma so che costano un pochino di più anche, intorno alle 300 euro, accanto a manovetto, poi, vabbè, ognuno fa il suo prezzo. Giulio mi è sembrato, avanti. Avanti il brecco. Buonasera a tutti, sono entrato a salutarvi, dai, doppio rumore. Ah, Gianni, ciao Gianni, sento brecco, mi sembrava Giulio così. Ciao Gianni, buonasera. Ah, dici, la voce di Giulio. Avevo premuto. Ma buonasera Gianni, buonasera. Ciao Eugenio, ben sentito, va. Ciao Gianni, buonasera, buonasera. E all'ombra, all'ombra, che si dice? E niente, scambiando quattro chiacchiere di mattino. C'è essere anche stazioncino a Chihuahua. Avanti Chihuahua. Il giorno dopo sto facendo cosa? Mario, ma ci sei ancora? No, non è fatto, sta girando il porcetto, sta girando il porcetto. Ciao Tino, ciao a tutti i tuoi amici, comunque io sono stato un po' così bruscamente. Ah, figurati. Sì, ho detto Beck, mi sono andato Giulio perché ho intraguardato Smither, ma di sfuggito. E poi non ho sentito l'eco. Ma Gianni è un futuro campionista. Ma se glielo ho detto anche io, prenditelo, prenditelo, ci stavo pensando. Boh, quasi si è capitata qualche occasione, non lo so. Adesso vediamo, anche la mia compagna lo vorrebbe, vediamo un pochettino là, come girano le cose. Per il momento no ancora. Comunque ho sentito che a quanto gira nell'aria, adesso a parte che stanno facendo i camper tipo semi-integrali, quelli non sono dati quasi niente, e quindi c'è anche molta richiesta su quelli. Quindi si trovano anche a seconda mano adesso. Ma questa roba non lo vedo lì. Probabilmente che si trovano, però l'usato sta alzando di prezzo. Cos'è oggi? Aspetta che Gianni da notte all'altra non se ne fa niente. Magari paga un po' più di meno, però se sono in due lui e la compagna, i figli sono già grandi, non ha tardato, non c'è fa niente. Questo è saldo, se si fa questo sono stato, se si fa. Sì, ma infatti io ho valutato il Monsardato perché noi siamo in quattro e non è che sono stati anche in tre, allora andava bene un semi integrale. Però questo qua è enorme, se non siete pussi è grande. Tino, ma il tuo che meccanica c'ha? Un Ducato, un 2008 o 2009, non ricordo. Ho capito, motore dell'argento c'ha quello. Dove sono? 2008 GTD. Ma la gente non era 2005. Girato è perfetto. Ehi, ehi, cazzo, da Roberto mi ammazza invece un 12 e cazzo. Ce l'ho attaccato. Siamo a 200 metri, cazzo. Se ne andate due ore, sono tutti i canali che invece ho mi ammazzenti. Addirittura. Ciao Roberto, sono molto attaccato, molto vicino. Ah, vabbè, dai, sono due canali, quindi già ci sta. Non sia col 430 che col 140, con tutti e due lo sento di splatter. Yes, yes, yes. Oh, che poi adesso oggi mi ha dato mezza idea, perché tanto il grande, a quanto pare, non ci vuole quasi più seguire, quindi mi sa che alzo il, alzo il letto. Ma ti conviene, se no quando non ci viene, quando capita che non viene, solo il billetto e c'hai un gabbone allucinante. A voglia, c'è anche il portanotto, te l'ho detto, sì. È una cosa che manca a me, vabbè, io la metto dentro il gabbone, ci sta tranquillamente. Ma io metto dentro il gabbone oggi. Allora, dentro il mio gabbone è un'altra stanza. Ma vedo, non so cuffuelli, è un'altra stanza. Io già l'avevo vista. C'è un po' di roba lì dentro. Ah, ma tu hai visto il vecchio, il nuovo non l'hai mai visto. Sì, vabbè, ma me lo immagino, insomma. C'era già grande quello là, questo è ancora più grande, quindi di spazio già ce n'è. Ma scusa un attimino, no, questo è veramente un appartamento. Se volendo il posto anche per metterci in garage. E allora metto il boss in chili. Ciao anche a Gianni, buonasera, mi sentite? No, no, io non. Non mi interessa. È una cosa che non mi ha mai attirato. Assolutamente. C'ho spazio anche per tenerlo, per prenderlo, per fare, ma non mi attira, non so cucirlo, io non vado a nessuna parte per comprarlo e tenerlo fermo. Lasciamo perdere. KK. attimo, c'è il riscaldamento a palla ed è pur tappato, c'è il plaid di lana sopra e adesso perdendo metto un poco. No, no, il mio è qua sotto a fianco a me, non vuole uscire, ed è tipo pollo sdraiato con le gambe di dietro, Argo, con la seringhiallo, sdraiato con le gambe di dietro praticamente aperte, ci stai rinfrescando i maroni. Anche il mio dogo si chiama Argo. Allora, cos'è il dogo argentino? No, un dogo argentino e un dogo sardo. Il dogo argentino è bello, mi piace. Non sto scherzando, c'è anche il dogo sardo, lo sapete? No, quello no. C'è anche il dogo sardo. E io un dogo argentino e un dogo sardo. E il dogo argentino è tutto muscoli, tutto super atletico. Tu hai bello bianchiato, poserati 55, c'è un testone allucinante. Non sono sicuro che sia aperto questo ricerca alle stelle, ma... No, io già lo stavo cercando, uno così, Solo, mi sento questo e mi ha preso questo. Tutti morosi o ti, sia l'Open Fire, il dogo argentino, tutta quella categoria lì, quindi io, tutti così, anche Filippo si colica pace a terra con le gambe indietro, perché dici che c'ha tutta la gugliuppa. Allora, ho sentito uno che ha un allevamento e stanno facendo di tutto per riconoscere la razza. Ma del dogo argentino? Perché lì no, è del dogo sardo. Ma mentre cosa... non puoi gliela riconosco. Da vado e diceva che c'è il mio genero, e ci ho detto, l'ho preso a Canario, che è dritto, e altro mi arrivi a quasi alla spalla, i piedi, non ne parliamo, i piedi più di due metri, forse di buco, e pesa 70 kg, l'altro invece non ne parliamo, l'altro è un cavallo, c'è il pastore del Caucaso, ma bello, e sottolineo bello, c'ha le zampe e cazzo sembrano gli zoccoli del cavallo. Anche i miei sono belli, sono anche che sono a pelle con le pinze tutti e due. Se l'ho insegnato così, anche quelli di mio genere non sono così, mi buttarono fuori e sono andati a portarli a mangiare, cazzo me la rendendo, ci devo andare a mangiare, ho detto mica che non mangia niente, forse nel gruppo peggio, non vediamo vento, poi piano piano, ho aperto il cancello, mi hanno seguito perché non mi facevo mangiare, mi ho messo a mangiare, ma 5 minuti ci si avrà preso subito il recinto, vamos, è meglio che andato, che te buio maduri. No, il mio, quello del dogo sardo, come arriva la gente, si mette a pancia in su e vuole essere grattato, è un buon azione. Il dogo argentino invece rimane, non si fa toccare, e ti gira attorno, è allucinante. In campagna è così il cane, no? Filippo è bravissimo, è un cane eccezionale, però quando è fuori, se passa qualcuno davanti al cancello, parte e abbaia, capito? Però è un cane bravissimo. Ma lì ci sono maduri, sono bravissimi, che è il pastore del Caucaso, non so se tu lo conosci, cazzo, è un pony presente, tu dirai, gli uccelli sono cani, bianco, sembra cazzo un bisonifardia, un cane di Heidi, ancora più mano di liscio, ma molto più grande del pastore Malemano, ma molto più grande, è un rinoceronte enorme, ma bello, bianco, bianco, lì lo pettano, lo spazzola tutti i certi giorni, a questo bar è un liscio, quanto è bello, sembra un pony, un cavallo, Carassai, pastore del Caucaso. Quelli sono belli, sono bianchi. Ah, bello, veramente bello. Se c'è qualche fatto male me la faccio mandare, deve reagire, ma bello, è un pony, è altro che un pony, tanto un cavallo. C'ha le zampe grosse quante lo zoccolo del cavallo, è una cosa spaventosa. Sì, sì, sono dei briccani. Questa roba si sta stratterando anche a me, se l'immagini, ma devo avere qualche spuglia. Sì, se trattene di 5340, gliel'ho letto mille volte, cazzo. Fatelo controllare a Fabrizio, fai qualcosa, cazzo. Cioè, io ho due HF, 140 e 430 mi splattera due canali. Volte ti ha coperto, aspetta che un attimo che vado a dire. Figurati, cazzo, ho sentito gli splatter. Figurati di dove le addananze. Vai, Tino. Tino. Tino sta giocando col cane. Scusate che mi sono allontanato. Sì, cosa c'è stata? Beh, guarda. Cosetti? Mi sono allontanato a togliere il cane, cioè non esce. Non vuole uscire, no? Poverino, c'è freddo. Si arrangia. Non sei umano, no, poverino mio. È uscito poco fa, mi ha ferrato il piscito, si è entrato a vento, via nella cuccetta. C'ha il materassino, poi c'ha il pred in divana e un altro ma sopra, ho aperto, si vede solo la faccia. L'ho comprato anche io, però per stare fuori. Adesso c'è Nicola che sta usando il tapirulano, l'ha sentito, era buh, non l'ho mai visto. Sono cose nuove. Sono cose nuove. Io spesso quando prendo il cespugliatore mi sigli e mi si piacerà anche. Capito? Perché per me sono cose che non ho mai visto. Me l'hai detto? Non era Franco che stava provando il microfono sul canale 20, ecco, era lui che stava sfatterando, mi sembrava impossibile che fosse Roberto. Io Franco ma come intendo? Io c'ho Roberto sul 12 che mi sta ammazzando. Vabbè, ma siamo vicini, quindi è per quello. Avanti oggi. Ehi, via Sovinoglio. Oh, mamma. Noia. Sono dopo uscite. Devo per forza andare a fare un giro. Sto fumando qua a casa. Mamma, così mi baghi, esci. Ma prendiamo sul vostro giro. Aspetta che sta. Stamattina sono uscito di moto. Stamattina, non un freddo, c'erano i guanti, il giubbotto grosso, sotto c'era il maglione con la camicia, cazzo, ma è troppo freddo, non fa. Cioè, no, con e poi c'è la... addirittura. Quindi da qua c'è 60 gradi di differenza, mi. Stamattina quando ho uscito c'erano 10 gradi. Come sono arrivato dentro Sassa c'erano 13-14. È un bel freddo a questa zona, capito? Vabbè là, oh, vi saluto, dai, che non si può modulare, che è un casino, no? Non comprendo nulla. Vabbè là, ci sentiamo, vado a mangiarmi la pizza. Ciao Giannetto, alle prossimine. Sì, Claudio, ma è andato ci sia la roccia? Sì, ci sono andato, buona la pizza. Bravi, ma ce l'avano anche a Sassari quelli lì. Sì. È buona, vai tranquillo che è buona, siamo già andati. Scappare, poi non sono mai andato, già voglio provare. Andiamo, dai, ci sentiamo. Buona giornata, buona serata. Ciao, già, buona serata anche a te, vai oggi. Sì, stavo dicendo, allora lo sarai, alle 7 mangiare. Ma dove sta pizzeria? Le pizzerie? Quella che non ha connesso. Caruccia. Aspetta che saluta Gianni. Ciao Gianni, vai, ci sentiamo. Buona pizzata. Ciao, ci sentiamo tutti. La roccia è di fronte all'Agip, rimane. All'Agip, penso quello di Cida. Ah, ma stai scendendo qua fuori 8 ore. Sai, ci sono andato, quando è? Avanti ieri. Ci vado sempre lì, a me mi conoscono e... Vabbè, non c'è tanto. Però si cantano buona, nonostante abbiamo... Io conosco Alisa. Vai tranquillo già, sono andato con mio fratello io, è buonissima la pizza, buona veramente, vai tranquillo. Vabbè, no. Adesso vediamo. Di nuovo, cordialità e saluti, ciao. Ciao, vai ti. Ciao. Andà bene, ho faccio un po' di belare. Visto. Lo smetto di impazzire, ma troppo alta la modulazione, sì. Sento bene. Va bene, cioè lo smetto di avere picchi positivi allucinati. Siccome ho pulito tutta stamattina, ho già comprato tutto, pensavo aver toccato qualcosa, ma se mi stai dicendo va bene così. Allora smetta che rulla forte. I vatti sono quelli, i vatti. Allora, i vatti. L'altro giorno, adesso non avevo accordato perché ho cambiato antenna. Andavo a fischiare, ho detto, mi si arriva fino a 10-15 watt solo. Ho detto, aspetta un attimino. No, no. A me stanno rompendo le palle di nuovo il 60 T. Vittorio dice l'effetto, ogni volta devo muovere la piccina sotto, l'interruttore sotto. Adesso appena ho 5 minuti chiamo a quell'amico, dico se me lo elimina quel tastino, se me lo elimina me lo mette diretto l'amplificazione, ma rotta di balle con l'interruttore. Becco, registrato, io non l'ho mai toccato, figurati da quando ce l'ho, e questo è da quando avevo 140 micro. No. Anche questo, non vedo quello, questo più vecchio che ho. Forse iniziano a difettare, non fa niente, muove appena appena l'interruttorino e se le prende subito, però si elimina è meglio quell'interruttore. Avanti Beck. Ciao Claudio, buonasera anche a Gianni e poi non so chi altro ci sia, mi sa Tino. Sono entrato a chiedere un piccolo rapporto di radio, come sto uscendo con questo microfono. Non casino una bomba, 920 radio 5, vai ti. Ti va bene, ciao Fra, va bene. Ok, allora lo chiudo, dai. Grazie per il momento, riprendo subito. Ah, Bex, questo qua è quello con l'alberino, non so se ti ricordi. Anche questo è con l'alberino, quello è l'attrio, noi abbiamo iniziato il team. Noi abbiamo iniziato con i 60, quindi anch'io ce l'ho così, con l'alberino magico dell'attrio. Ma non ha mai difettato, siccome è un difetto che il 60 fa con l'andare degli anni. Cioè c'è l'interruttore in out, no, quello lì ogni tanto si inchioda, ma quando lo tieni un po' fermo, io ce l'avevo un po' fermo questo microfono. E l'altro giorno me l'ha fatto, l'ho sollevato, ho fatto TT, e si è ripreso subito, perché non è che non esce, esce senza amplificazione, capito? Ma il mio ce l'ha. Dove c'è scritto Kenwood? Sulla sinistra c'era l'alberino, disegnato. No, quello gliel'ho dato io, è l'ultimo che avevo comprato, gliel'ho dato io a Eugenio. Guarda, quell'alberino ce l'abbiamo io, tu e Franco, in Franco California, perché gliel'ho dato io lo stesso, ne avevo due con l'alberino della Trio. Andabè. Questo è quando... che anni erano? 90. Sì, anzi. Ma ce l'abbiamo un giorno noi 60, perfettamente. Guarda, siamo i primi noi a Sassari che l'abbiamo usato. Siamo i primi. Perché tu quel microfono è quello che ti hai tenuto della linea che avevi comprato da Antonio R20. Sì, però non mi ricordo se ce l'avevo anche quando avevo comprato il 140, non mi ricordo se è quello, perché poi me l'ho cambiato. Non so, però la linea di Antonio l'hai comprata con l'MC60 della Trio, perché ce l'avevo io a casa quella linea, capito? Ce l'avevo io a casa e poi l'hai ripresa tu, quindi siamo in pochi che abbiamo quel microfono, io so solo io, tu e Franco Canifo, perché le avevo dato io uno, e poi a me me ne era rientrato un altro che avevo comprato con un C80 e me lo sono tenuto per questo. L'altro che avevo nuovo, quello l'ho dato Eugenio, quello di Eugenio è l'MC60A, l'ultimo che hanno fatto. Mai vista una forma di batteria strana. Ah, bene. Eugenio. Ehi, dimmi, sono qua. Entra. No, vai tranquillo, state... No, ma vai tranquillo, non c'è problema. Noi stiamo parlando di microfoni che c'hai anche tu. Questo non è il 430, è il 140. E c'è le bicchi di modulazione, ma l'ha detto. Oh, come qui c'è disegnato? No, guarda. Mi hanno proposto, e allora dovrebbe portarmi là, ma non lo sono tenuto. Sono di solito stavo usando sempre il 430. Guarda, chi se lo compra il mio, questo qua. sta solo l'ingresso? Manco di trovare una breccia d'oro, dai, chi c'è tu? Allora c'è per caricare con la batteria, con l'accumulatore? Beh, sta caricando. Quella è nuova, nuova, nuova, ma nuova, vero, barone. Quella qua è perché Massi è un amico come te, se non l'avrei mai fatta. Assolutamente non l'avrei tenuta. Nuova, quella è immacolata, mai usata. Mai usata. Quella io proprio per darla a Massimiliano, l'avevo mandata al centro assistenza e quando l'ho mandata mi ha telefonato, mi ha detto ma cosa ce l'ha a fare a questa radio? Ma non lo so, beh, non ha controllata, la devo vendere. E cosa la devo controllare? C'è ancora i sigilli dentro, la devo controllare. Ma ti posso fare un allineamento, vedere un po', invece in pratica non l'ha fatto nulla, che me l'ha tornato a mandare, però l'ha controllato. Ma l'ha mandata e fatto, non avevo pagato niente, l'ho provato a Massi, nuova, nuova, nuova. E questa è la stessa cosa, anche questa era la mia, l'avevo venduta a una persona, non di Sassari, l'ha tenuta qui un anno e mezzo dentro l'armadio, ok? È andato a accenderla. È andato a accenderla e mi ha telefonato, ah con la radio vuole accenderla, ce ne va 14.000, bravo, e tanti anni c'è tanto in dita, è un anno e mezzo almeno, gli ho detto è partita la batteria a tampone, ci vuole la batteria a tampone, se no non ti mantiene le memorie, cos'è non è, ho detto vabbè, ci vuole la batteria a tampone, allora te la porto e ti arrangi, l'ha portata tramite l'amico nostro, per capirci, già sai chi è, mi ho telefonato, ho detto così, così, così, mi ha detto qua, non è difficile, gira, la stacchi, guarda se la trovi uguale, con le alette, sono andato a Fusaro, non ne aveva con le alette a saldare, allora ho ritelefonato e mi ha procurato il portabatterie proprio a saldare, quindi adesso c'è il portabatterie, praticamente tu quando la batteria si scarica, adesso è nuova, no, tutto nuovo, si scarica, la fili e la rimetti dentro, non devi saldare più niente. Ha giovato il butto, gli ho telefonato, per me la radio è pronta, perfetta, però tutta rimemorizzata, tutto ok. No, tienitela, tienitela, e per me non mi siete, no, tienitela, te la vendo a te. Beh, che te la da pigliare io. Va bene, va bene. Sì, è nuova nuova anche questa, le ho messo la batteria a tampone, perfetta, le ho fatto, per memorizzato i canali, tutto, e me la sono tenuta, è un prezzo buonissimo, diciamo meno di quanto le avevo vendute io, però beh dai, lasciamo la birra cura intanto, almeno io due, non si sa mai, se il 430 mi lascia a piedi, ma oramai tutto revisionato, tutto messo a posto, vai genio! Sì, sicuro! Sono qua. Stavo decidendo gli affassi con moglie. Tra un po' chiudo e finisci in minuti grandi. Oh, mamma! Mamma, così mi sbaglio io. Oh, non dai, mi ha detto. Quando chiudo alle 10, mi esco con le amiche, le colleghe, vai, ciao. A me ti ha detto, mamma Zana, devo fare l'apertura, mi ha detto 7 mesi. Ma no, non rientro tardi, e vabbè. Lascia la va. Non vuol di merda quello, oggi, capito, non vuol di merda, era stamattina alle 7, mi. È rientrata alle 2, alle 6, è ritornata, adesso chiude alle 10. È un lavoro di merda, lascia stare, ci vuole un po' di riposo, domani mattina ti alzare presto, rientri tardi, magari vi berrete la cosettina, capito? Non funziona così, ma quando uno devi travagliare, devi travagliare. Io quando lavoravo la domenica, al 70 sabato sono rimasto a casa. E telefonava, vabbè, mangiare la pizza, e invece lui io non vengo, domani mattina mi faccio alle 5 io. Lascia perdere, che io già mi conosco, pure quando c'è più in compagnia. Rientro tardi, si fa tardi e Romagano si è un cadavere. No. Se non lavoravo allora anche tutta una tirata facevamo. Ma quando uno lavora e soprattutto maneggia soldi deve stare molto molto con la testa lucida. Organizza una pizzata io. Ci mandiamo a abitare da qualche parte. Ah, quando volete, non c'è problema. Basta che me lo dite, organizzo io. Comunque organizzo. Non cadere organizzare. Tu quando vuoi a me me lo dici, mi fa piacere, volentieri, andiamo a mangiarci una pizza, con voi, no, non ce n'è problema, sì, figurati, con Tino, con coppie nostre, no, voglio andare, un cazzo da Luigi B, ma appennati. Io dicevo così, canale 10. Canale 10, mi dico, oh, cagamo cazzo. Ehi, ciappi, ciappi, non è una bella giocchetta. Non c'è più nessuno, no? Non ce n'è più di cose belle da fare, no? Non ce n'è più di cose prima, un tempo, ma io non ho più niente a che fare con nessuno. Basta rigotti da giubiliardo, non sono uscito una macchina mai. Io a casa mia e gli altri a casa sua, vero Tino? E allora, via. Vabbè, prima si facevano più ragazzi, più vogliosi di fare queste cose qua. Poi, con tre cose, la gente cambia e ciccia. Quindi, io lo sai, l'unica cosa bella che ho avuto nella mia vita in radio, qual è? Ah? Quando ho conosciuto Tino Muscolo. Posso male. Mica diventa rosso. Mi sto emozionando, ok. Ma lo sai perché? Perché mi telefonava alle 3 del mattino, io ero in radio allora, mi chiamava alle 3 del mattino che rimaneva secco con la macchina a Porto Torres, cioè, capito? E io da amico andavo a recuperarlo, adesso non esistono più queste cose. Già esistono, che quelli sono gli amici ci sono sempre. Gesù, che è soltanto combinato. La cosa che mi è rimasta impressa è quella per avvio quando avete bucato il Vespone, che se avete guardato la lunetta. Siamo andati a poi a Sentino con cosa che eravamo arrivati. Siamo andati. No, mi sa che stavamo tornando, stavamo andando a Sentino il Vespone, come lo ricordo. Avevamo bucato da un macciato il Vespone e la lunetta, graio. E beh, ero venuto io a prendere, a recuperarli anche lì. Io e lei eravamo venuti, eravamo andati a Sentino in macchina, ehi. Quelle sì che erano belle uscite, Jake, a gioventù. Quelle, ma fate che andare a cercare il divertimento. Oggi io guarda, sono preoccupato per l'avvenire dei nostri giovani, perché effettivamente ho rinchiuso in camera a giocare con la PlayStation, e adesso bene o male lo sto impegnando un po', non sto impegnando, è già impegnato già qualche anno a giocare a pallone, adesso sta iniziando a uscire, però effettivamente interessi nei ragazzi non è che ne veda più di tanto. Se avevamo 100.000 lire andare a comprarci i pezzi per la Vespa, sempre le mani dentro il motore della Vespa che camminava di più a ruda, allora, queste cose non sono più, oramai sono tutti incoglioniti con gli scooterini, con i cellulari, e purtroppo i tempi cambiano. Che bei tempi veramente, veramente Tino c'è qua, ci divertivamo, con niente, noi eravamo in radio, andiamo, aiù, poi stiamo andando, partivamo, via, vamos, cazzo, bella era la macchina di tuo nonno, ma che fine ha fatto quello RC? Buongiorno, oggi te la racconto io, scendiamo io e Gavino, scendiamo con l'RC di mio nonno, perché eravamo squattrinati, giovani ma squattrinati, avevamo 10.000 lire, mettiamo la benzina facendo a Sentino, con l'RC, arriviamo a Sentino, e ci fermiamo a un bar, e mi fa Gavino, mi compà, io non ho soldi, perché neanche io, vabbè, la serie che ci sediamo al tavolino, ci vedono degli amici, e poi la prendiamo la cosa, vabbè ragazzi, cosa prendi, un caffè, quello va, e che va a pagare, io Gavino, lui, Claudio, aveva una manciata di soldi, di gettone dell'autoscontro, non va a pagare comunque lì, Gavino. Veramente capito, ma erano i cugini. La ragazza mette in strada, se no vedono per la vasia tornando a dentro, capito? Aspetta che ho finito lì, paga con questi gettoni qua, perché conosceva il bar, il padrone del bar, no? Vabbè, è arrivato l'ora di andare, cioè ce ne andiamo. E arrivo all'incrocio della cantoniera di Buonanima, e faccio mi comprare cose, sono due. se giro qua a destra accompagnerà te, io rimango a piedi e domani non posso andare a lavorare, mentre invece se ti lascio a piedi e giro a sinistra vado a casa e domani posso andare a lavorare. Grazie, mi guarda, sei un bastardo. Ma chi è questo Gabbino? Gabbino Celentano, non l'hai conosciuto? Gabbino Celentano, l'hai conosciuto adesso? No, di Sassari. Vabbè, Sentinaggio era, di Sentino il padre. Sì, di Sentino, però lui a la stazione c'aveva a Sassari, via Sorso. Sì, è un CB comunque. Sì. Noi solo con i CB ci fanno, il sugar. Ma da lì allucinante, e andiamo a raccontare. Quella che consumava più di tutti però era il 127. Eh sì, perché si avventurava molto spesso, sa se è Porto Torres e poi rientrando, si perdeva in campagnette. Ah, se la buona anima di mio padre ce l'aveva, cioè dove ci siete sport, cosa ridda era, visto quanto camminava. Anche ne ha avuto tre, ne ha avuto il prima avuto mia sorella, il 127 Sport, che è grigio, che abbiamo avuto un brutto incidente andando a Farao. Quando ero militare, poi quello, un altro bianco e un altro blu. Bella reddiera. Ah no, quella gran bella macchina, 127, 112. No, io c'avevo la 1, c'avevo la 1 grigia. Adesso quanto siamo divertiti, la moto, vabbè. Bei tempi. Vabbè, Vannino di Sorso, cosa pensi che non ti abbia sentito? Tu mi sembra per Vannino che ha detto la mia ragione. La scuola mi sta buttando la porta a me, vuoi entrare qua? Vale entrare, poverino, abitolo a stare dentro e fuori, ai comandi. Come faccio io quando ti raggio con i fuori, ti con i fuori, a me non ti pensavi. Però c'è troppo freddo, cazzo, è troppo cucciolo, che. Ma io avanti, chi è che ha detto bella reduira? Forse la ce l'abbiamo, se ci conduce non dico già un salario, magari rimane, se non ti dispiace. Quella la stazione c'era tra Cappotto, ragazzi, Cappotto con Sciarpa, cosa ridda, È freddo, c'è freddo, un po' di freddo c'è. Mi si è dato che stasera sfogliano il completo di Bagella, va, ho capito. Completo di Bagella? Bene. Comunque è abbassata la temperatura, ma da ieri me ne sono accorto, stavo lavorando, a un certo punto esco fuori verso le 5, perché ho lavorato sino alle 6:30 se mi ricordo, ero dentro casa, stavo imbiancando casa del nostro principale, che mi ha freddo, come mai? Tutti, stamattina Ilaria è uscita per andare al lavoro, che aveva 6 gradi, no? 6 gradi e quasi 10, 9 ce ne erano a Sassari. Dimmi una cosa, ma con quarantena l'hai alzata? Sì. Allora, sei quasi 9:20, però vai con picchi positivi a 9:20. Sì, l'ho finito tutto, ti. L'ho messa definitivamente, non riesco a fare, l'ho messa anche tre tenantini, ma niente di che, ne rendo il tubo, ma tubo piantone da 60, quello che abbiamo, che c'era Carbonazzi, quello che avevo preso da Fabrizio. Piantone da 60, c'è 60, 55, 50 e 45, quindi basta così. Ah sì, già va bene, hai voglia. Ha voglia. Sì, io come sono da te? Allora tu vai con picchi da 9 a 9, quasi 15. Addirittura. Addirittura tocchi anche 9:18. Questo mi intende, c'è una bomba, sì, genio. Se sei 9:05 qua, che sono a 4 km dal Sassari, io no, e non lo vedo Sassari. Fischia. 9:18. Proprio il punto massimo. E lui è davanti a te, mi. Lui portatore se lo vede, Tino. Io non ti vedo, sei già a 9 qua, con picchi quasi a 9:05. Sei una bomba. Sì, andavi. Adesso la significa piazzare, non toccare mai niente, boh, e no, già fisso. Ma io te l'hai detto una voce, e tu non mi hai creduto. Tu avevi bisogno di una radio come quella, che non hai bisogno di toccare niente. Tu quella la regola, come sempre ho fatto io, faccio lavoro, è una bellissima radio, c'ha potenza, l'antenna è buona, è nuova, e vai di luce. Lui c'ha un baracchino, 2 watt, 3 watt, 5 watt. Io faccio il gas, è sempre spento, è un bellissimo baracchino, eh? Perché è sempre un baracchino, eh? Però non ci riesco a parlare con quel baracchino. A me se non va giù, mi si sento molto. No, oggi vabbè, ho provato con Luca a aumentare un po' il watt. Ho visto che ha aumentato parecchio. L'ho messo a 10 come sempre. Anche qua ho aumentato, però ho letto, ci è arrivato 9-10.